campi. Settimanale per gli agricoltori del Friuli Venezia Giulia. Domenica 24 settembre, il sole in regione sorto alle 6.56 e tramonterà alle 19.02. Venerdì ci sarà luna piena e siete all'ascolto di Vita nei Campi. Buongiorno da Rita Micoli e Armando Mucchino. I titoli. In apertura il formaggio Montase, un brand della nostra regione che dal 1200 è al top delle produzioni casearie nostrane. Per i corsivi di Licio Damiani per Vita nei Campi, i grappoli d'uva calcati dai satari, andato in onda il 1 settembre del 1996. Tra le leguminose da granella c'è anche il fagiolo a zucchi che si inizia a coltivare anche in regione. Per la rubrica del vino ancora un'analisi della macerazione dei pigiati con l'estrazione dei coloranti rossi dalla buccia. Per la rassegna dei grandi alberi del Friuli Venezia Giulia oggi il monumentale Larice di Malga Lussari. Il goulash, piatto ormai assimilato dalla tradizione regionale con radici antiche e internazionali nello spazio della gastronomia. In conclusione, andamento dei mercati agricoli in Friuli Venezia Giulia, previsioni del tempo per la settimana entrante e il proverbio friulano della settimana. Il formaggio Montasio, uno dei vanti del Friuli Venezia Giulia, ha radici che vanno nella storia. È di 250 anni fa, la prima citazione ufficiale di questo formaggio, però lo si produceva già nel 1200 e nell'84 è arrivato anche il suo consorzio di tutela. Il punto su questa produzione oggi lo facciamo con il direttore del consorzio, Renato Romanzin. Innanzitutto, allora, 1200 per cominciare a mangiare Montasio. Ma sì, i monaci benedettini dell'abbazia di Moggio, che erano proprietari attraverso il patriarcato di Aquileia, il patriarca gli aveva dato in gestione le malghe del Montasio. E già lì a loro avevano codificato, perché a quel tempo erano loro che portavano in maniera scritti quelli che erano i processi di caseificazione dei pastori, che nella loro tradizione caseificavano il formaggio per autoconsumo, parliamoci chiaramente. Il consorzio ha un suo mercato, ci faccia un rapido excursus. Il consorzio è nato nel 1984, nel 1986 ha ottenuto riconoscimento della denominazione di origine. Il mercato nel 2023. Nei primi 7 mesi dell'anno ha un più 5%, l'anno scorso ha venduto 825.173 forme, per un fatturato al consumo di 65 milioni di euro. Rappresenta la sesta DOP dei formaggi di latte vaccino in Italia. E c'è poi il montage di montagna. Qual è il suo valore aggiunto e perché si chiama così? Perché è prodotto in zona montana, al di sopra dei 600 metri, i foraggi, gli animali e i caseifici e anche i magazzini di stagionatura devono venire in area montana. I progetti del consorzio? Rafforzare gli elementi di identità e di autoctonia attraverso ricerche genomiche presso ceppi di lattobacilli storici che ci permettono di continuare nel tempo questa grande arte casearia fatta con solo latte, caglio e sale. Montasio e formaggio latteria non sono la stessa cosa? Sono la stessa cosa perché la base di partenza è lo stesso, il processo di caseificazione è similare. Però il Montasio è codificato e ha un disciplinare di produzione. Il latteria lei lo può trovare dai 5 giorni ai 7 mesi, 8 mesi, mentre il Montasio prima dei 60 giorni non può essere messo in commercio e inoltre può essere prodotto solamente nell'area tipica di produzione, con latte proveniente da quell'area, dagli 850 allevamenti, dalle 10.000 analisi che noi facciamo all'anno presso gli allevatori e presso i caseifici e dai 500 controlli che facciamo presso i punti vendita per garantire l'autenticità del prodotto che viene commercializzato. Nei banchi dei supermercati troviamo formaggi di ogni nome, di ogni tipo, di ogni colore. Stanno insidiando un po' il mercato del Montasio? A prescindere che i consumi pro capite di formaggio sono diminuiti in maniera abbastanza consistente. Insidiandolo no, però uno un'emozione la trova solamente nel Montasio. Per la lettura dei corsivi di Licio Damiani raccolti nel volume Vita nei campi, storia, memorie, leggende della campagna, oggi vi proponiamo Grappoli d'uva calcati dai satiri, in onda il 1 settembre del 1996. Settembre nel calendario celtico era il mese della vite, la pianta della gioia, dell'allegria, ma anche dell'ira, mese dedicato dagli antichi greci a Dioniso, il dio della vita indistruttibile, della pienezza esistenziale. Impropriamente la fantasia popolare l'ha trasformato nel personaggio rubizzo, grasso e beone. Ricordate il simpatico Bacco, sbronzo, nell'episodio del cartone animato di Walt Disney, Fantasia, al quale si accompagnava il commento sonoro della Quinta Sinfonia Pastorale di Beethoven? Dioniso in realtà veniva celebrato come il dio della follia creatrice, fondamento irrazionale e giocondo del mondo. Fu lui a donare all'uomo la vita e il vino, sublimati dal cristianesimo in elementi di salvezza e resurrezione. Ma anche nell'Ella della Vendemmia era rito sacrale. Un fanciullo divino, Iacco, portatore di luce, nasceva dal mondo sotterraneo. I satiri, le selvagge creature, espressione della forza naturale, calcavano con i piedi i grappoli d'uva, facendone sgorgare il succo rosso di spuma. E maschere satiriche celavano il volto dei pigiatori che perpetuavano nei secoli, lì a settembre, la magia dell'operazione. Cantavano accompagnati dalla melodia del flauto e invocavano ebri il nome del dio dionisiaco, smembrato e lacerato secondo il mito per rinascere e trionfare. Consuetudine protrattasi anche nell'era cristiana, tanto che alla fine del VII secolo un concilio della Chiesa dovette severamente vietare la pratica pagana, imponendo che per ogni misura d'uva versata nel tino si gridasse, anziché il nome di Dioniso, il Kyrielenson. Cristina Micheloni per la rubrica del Bio inizia una serie di contributi sui legumi da granella, la carne vegetale di cui ci aveva parlato la trasmissione scorsa. Inizia con il fagiolo a zucchi che ormai di esotico in regione ha solo il nome. Cominciamo dunque la rassegna delle leguminose da granella per uso umano, roba che mangiamo noi, insomma, non le galline, e che si coltivano o si possono coltivare in regione. Per partire e acchiappare l'interesse ho scelto uno tra quelli non strani ma poco usuali sulle nostre tavole e ancor meno frequenti nei campi, il fagiolo a zucchi. Intanto non è un fagiolo ma una vigna, come il fagiolo dall'occhio. Dal nome scientifico Vigna angularis, produce un legume piccolo dal colore verde ma più spesso rosso-bruno, tant'è che viene anche chiamato soia rossa, benché con la soia non condivida granché. Si semina da noi verso fine maggio-inizio giugno, ma è abbastanza flessibile, da considerare però che da un lato patisce temperature al di sotto dei 10 gradi e come tutte le leguminose teme il caldo in fase di fioritura, però sia il caldo che il secco ne fermano lo sviluppo ma non uccidono la pianta, anche se talvolta sembra, che alla prima rinfrescata riparte. Insomma, una pianta fatta per resistere ai climi estremi che questi anni ci propongono. È piuttosto sensibile ai patogeni terricoli, quindi nella rotazione va ben distanziata da altre leguminose. La situazione perfetta è dopo una senape o altra crucifera da sovescio. Per facilitarsi la vita nel controllo delle malerbe, una falsa semina è buona norma, quindi consideratela nella tempistica della gestione del sovescio. La pianta rimane abbastanza esile e soprattutto nelle prime fasi di sviluppo ci mette un po' a coprire il terreno, quindi bisogna seminarla a file e non stancarsi di strigliare prima e sarchiare poi e nemmeno tirarsi indietro dovesse servire qualche cerbatura. Ovvio che in agricoltura convenzionale si usano gli erbicidi, ma qui non li consideriamo un'opzione, tra l'altro non credo meno esistano erbicidi registrati su questa coltura. Non ha esigenze di fertilizzanti se il terreno ha una buona dotazione organica ed è ben drenato, in modo da consentire una buona vivacità. Essendo una leguminosa, si arrangia per l'azoto con i propri alleati microbici. Anche nei confronti dell'acqua è piuttosto parca, ma un po' di disponibilità migliora la produzione e facilita la sincronicità di maturazione dei bacelli. Si raccoglie già secco verso inizio settembre, ma la maturazione è appunto piuttosto scalare, cosa che complica un po' le cose. Infatti, con una normale trebbia si rischia di perdere il primo palco e portare a casa tanta roba verde. Meglio procedere in due tempi, estirpando prima le piante, lasciandole asciugare in andane per qualche giorno, come si fa con gli arachidi, e poi proseguendo con la trebbiatura. Se la coltivate nell'orto o comunque su una superficie limitata, fate tutto a mano e anche con facilità. Come si usa? È molto popolare in Giappone, dove viene usato anche per la preparazione di marmellate dolci. Sono considerate un vero e proprio toccasana, sia per il buon 20% di proteine, ma anche perché più digeribili degli altri legumi. Hanno poi un buon contenuto di fitoestrogeni, di molibdeno e acido folico. Cinesi e giapponesi li considerano pure un portafortuna. Ma da noi? Da noi si coltivano da un paio d'anni in quel di Sesto a Reghena e se volete assaggiarli approfittate delle giornate del bio, ovvero oggi, per sperimentarli sotto forma di gelato a Udine, di tempeh a Moruzzo e dessert a Pordenone. Oppure, se siete corti di inventiva, usateli come i fagioli comuni. Tutte le informazioni sulla giornata del bio al sito di aiab.fvg.it. Il professor Roberto Zironi continua l'analisi della macerazione dei pigiati, oggi la volta dell'estrazione dei coloranti rossi dalla buccia. I vini rossi si ottengono per macerazione delle bucce, che contengono molti dei composti responsabili delle caratteristiche visive, olfattive e gustative che li differenziano dai vini bianchi. Nella buccia dell'uva rossa, all'interno dei vacuoli, negli strati cellulari dell'ipoderma, troviamo gli antociani, che in funzione sia delle concentrazioni che delle percentuali relative delle diverse antocianidine, determinano varie colorazioni rosso-bluastre. In questo modo si giustificano le diverse sfumature di colore delle bacche delle uve nere. La dissoluzione degli antociani nel mosto dipende prima di tutto dalla varietà e dallo stato di maturazione delle uve, e l'estrazione dei costituenti delle bucce è selettiva. La buccia dell'uva è ricoperta dalla pruina, che è caratterizzata da una forte idrofobicità. In una prima fase della macerazione, il solvente di estrazione è costituito esclusivamente dall'acqua del mosto. Pertanto, la presenza della pruina non permette una sua azione solvente dall'esterno verso l'interno della buccia, ma soltanto il contrario, cioè un'estrazione partendo dall'interno verso l'esterno. Essendo le cellule dell'ipoderma praticamente ricche di antociani, in una prima fase della macerazione verranno quindi estratti selettivamente gli antociani rispetto agli altri composti fenolici presenti nella buccia. Se le bucce sono integre, il liquido colorato che si forma all'interno dell'ipotetico sacchetto costituito dalla buccia diventa rapidamente saturo di costituenti e gli scambi si arrestano. L'ulteriore dissoluzione dipende dalla diffusione della massa delle sostanze estratte e dalla sua sostituzione all'interno delle bucce con un liquido estraente meno concentrato in soluti. La diffusione nella massa delle sostanze estratte e il rinnovamento del succo si realizza effettuando le follature e i rimontaggi, o meglio ancora con la già ricordata tecnica del delestage. Tutte queste operazioni di movimentazione del liquido comportano anche un'omogenizzazione del contenuto della vasca, diminuendo la possibilità che vi sia differenza tra il tenore in composti fenolici del vino fiore e quello del vino di pressatura delle vinacce. La dissoluzione degli antociani è facilitata anche dalla permeabilizzazione dei tessuti che si può ottenere aggiungendo degli specifici preparati enzimatici oppure per frammentazione meccanica della buccia. Mentre la prima procedura è favorevole al miglioramento della qualità del vino, specialmente se l'uva non è sufficientemente matura, la frammentazione delle bucce comporta solo apparentemente un miglioramento dell'estrazione, in quanto i composti estratti verranno successivamente assorbiti dai frammenti di buccia, che al termine della macerazione sedimenteranno sul fondo del contenitore e saranno separati dal vino con travasi e filtrazioni. Inizia oggi con l'ispettore della forestale Dario Di Gallo la carrellata sui grandi alberi del Friuli Venezia Giulia, quei monumenti vegetali che fanno la differenza in un bosco, in una foresta. Il Larice di Malda Lussari. Nella foresta di Tarvisio, cuore delle Alpi Giulie, fra il Monte Lussari e la cima del Cacciatore, ai piedi dei grandiosi gruppi del Montasio e dello Jofuart, si stende, cinta dalla magnifica foresta, una bella conca con morbide ondulazioni prative dalle cangianti tonalità del verde. Al centro, a 1573 metri di altitudine, la Malga Lussari, facilmente raggiungibile dal santuario, in 30 minuti lungo una comoda strada, oppure camminando un paio d'ore da Camporosso per il sentiero dei pellegrini, o dalla Val Saisera per la ormai celebre strada forestale del Giro d'Italia. L'albero monumentale si trova al bordo della foresta, sul limite meridionale del prato, dove potremmo subito constatare il suo maestoso ed elegante portamento e le sue notevoli dimensioni. Alto circa 30 metri, ha una circonferenza che sfiora i 5 metri ed è un'età stimata di circa 500 anni. Il Larice è una specie molto longeva, che si adatta a condizioni ambientali severe, non teme gli eccessi climatici e affronta con disinvoltura fulmini, valanghe e forti venti. È dotato di un potente apparato radicale che gli permette di raggiungere, anche su rocce nude, i limiti altitudinali estremi della vegetazione arborea. Le sue armi di difesa sono rappresentate dalla elasticità e resistenza delle sue fibre legnose, dalla capacità isolante della sua spessa corteccia e dalla strategica perdita delle foglie nel periodo invernale. È un albero arioso e profumato l'arice, con la sua chioma leggera dal bel colore verde chiaro e dagli splendidi e carnosi fiori femminili dal colore rosso cremesi. Molto amato dalla gente di montagna, a cui ha reso grandi servigi col suo inattaccabile legno. È nella stagione autunnale, però, che una visita a questo albero offre le emozioni più forti. I suoi delicati aghi diventano dorati, come ben descrive l'autore francese Jacques Brosse. Quando viene l'autunno, i larici, che fino allora si distinguevano appena dalle altre conifere sulle pendici della montagna, si svelano al sole che li infiamma. Fittamente schierati, questi alberi d'oro celebrano lo splendore della natura alpina. Antica e internazionale, la storia di un piatto divenuto tradizionale anche nella nostra cucina, il goulash, come ci racconta oggi Roberto Zottar. La contessa Perusini ricordava che il friulano desidera la scodella di minestra calda ben preparata, come e quanto i meridionali tengono ai loro maccheroni. Tra le zuppe presenti in regione c'è quella di goulash, la cui ricetta ha origini antiche. Un tempo i mandriani ungheresi a cavallo, i gulias, cuocevano carne a pezzetti con cipolle finché il liquido evaporava ed essiccavano il tutto al sole su tavole e lo conservavano in otri di pelle. Nei bivacchi il cibo veniva riscaldato poi con acqua e qualche rapa per preparare una minestra. Questa zuppa venne chiamata goulias hus, poi abbreviata in goulias, dove hus è carne, ossia carne preparata alla maniera dei mandriani. Il vero goulash, quindi, piatto oggi simbolo dell'Ungheria, è appunto proprio una zuppa, quella che nei paesi di lingua tedesca si chiama goulash zuppe, a base di carne a bocconcini in una salsa più liquida. Nei paesi parlanti tedesco, ma anche da noi, con goulash, spesso oggi si indica invece uno stufato di carne, piatto che in Ungheria invece va sotto il nome di perkelt. Ricordo che la paprika, ricavata solo con polvere di peperoni dolci, e oggi elemento imprescindibile del piatto, non era prevista nella ricetta originale ed è stata aggiunta solo nel 700. L'abbondante uso di paprika, a differenza di quello che in molti credono, non dà una nota molto piccante come la darebbe invece il peperoncino, ma serve a dare densità, un aroma speziato e il caratteristico colore rosso cupo della pietanza. Pietro Adami riporta, come apporto d'Oltralpe in Carnia, una ricetta di goulash zuppe, ma oggi vi racconto invece quella dell'antico albergo Roma di Tolmezzo. In una casseruola soffriggete in olio 3 etti di cipolla tritata grossolanamente e aggiungete 3 etti di carne tritata da dini, muscolo o paletta di spalla, salate, pepate e rosolate bene, insaporite con 2 cucchiai di paprika dolce e mezzo cucchiaino di piccante, un pizzico di kümmel e uno di semi di finocchio. Bagnate con un bicchiere di vino rosso e fate evaporare cuocendo per 10 minuti. Aggiungete ora, poco alla volta, 2 bicchieri di brodo di carne, continuando la cottura per 1 ora e 40. A parte, cuocete al vapore 2 etti di patate tagliate a dadini, badando che restino ben sode e uniti dalla zuppa che dovrà risultare ben densa. Servite bollente in ciotole di terracotta e, volendo, accompagnate con gnocchi di pane. Buon appetito! E con Amos D'Antoni l'andamento dei mercati agricoli in Friuli Venezia Giulia. Mercato debole con prezzi cedenti venerdì scorso nelle contrattazioni cerealicole della Camera di Commercio di Pordenone Udine, dove il mais con umidità 14% è stato quotato fra 19,70 e 20 euro il quintale IVA esclusa, il frumento tra 21,70 e 22,20, l'orzo peso specifico 62,65 tra 17,70 e 18,20. Rispetto ad un anno fa il mais è diminuito di 12 euro il quintale, il frumento di di 13,40 centesimi. Stabili le quotazioni del settore zootecnico, dove le vacche fine carriera e prima qualità vengono pagate a peso morto fra 3,05 e 3,55 euro il chilo IVA esclusa, quelli di seconda fra 2,35 e 2,95. Pure nel comparto dei vitelli da ristallo, nell'arco delle ultime settimane, si evidenziano prezzi fermi e i bluebell gamaschi sono quotati fra 6,6 e 50 euro il chilo IVA e compresa. I pezzati rossi fra 4,40 e 5 euro, i frisoni fra 2 e 2,20, i bruni alpini fra 1,50 e 1,70. In lieve calo invece il mercato dei suini con i lattongoli di 30 kg quotati franco partenza a 4,22 euro il chilo IVA esclusa, i grassi da macello a 2,26. Nel comparto caseario la commissione camerale di Pordenone e Udine ha determinato il prezzo del latte crudo di vacca di origine del Friuli Venezia Giulia, quotandolo ancora tra 50 e 52 centesimi il litro più premi qualità e IVA. Ha confermato pure il montaggio di 90 giorni, tra 8,70 e 8,90 euro il chilo IVA esclusa, quello di 4-6 mesi tra 9,80 e 9,90 e lo stagionato 12-15 mesi tra 10,10 e 10,30. Prezzi riflessivi nel comparto dei foraggi con un lieve calo per l'abbondanza di prodotto. L'erba America viene quotata tra 17 e 18 euro il quintale IVA esclusa, il fieno Mazzengo di pianura si paga tra 11 e 12 euro e la paglia di cereali pressata si quota fra 8 e 10 euro il quintale. Con il previsore dell'ARPA Marcellino Salvador diamo un'occhiata al meteo per la settimana entrante più un breve contributo di climatologia locale. Settembre si sta avviando alla conclusione con un'ultima settimana che, come vedremo in seguito nelle previsioni, avrà caratteristiche quasi estive e che sarà quindi molto favorevole alle operazioni in campagna. Ciò ci consente già di fare un bilancio di questo mese che, diciamo subito, ha avuto un carattere decisamente estivo, più che autunnale. La temperatura media in pianura si attesterà sui 21 gradi, 3 gradi oltre la norma, e tale da contendere al settembre 2011 il primato di settembre più caldo almeno da 30 anni a questa parte. Solo tra una settimana potremo sapere quale si porrà in testa, dato che sarà una questione di decimi di grado. Questo fatto ha ovviamente avuto conseguenze anche sulla temperatura del mare, che è straordinariamente alta e che in questi giorni è poco sotto i 25 gradi e quindi 3 gradi oltre i dati normali per il periodo. I 25 gradi sarebbero il valore normale per la prima decade di agosto, quando c'è la fase più calda per l'Adriatico. Se la temperatura del mare a fine mese sarà oltre 23 gradi, avremo battuto ogni record storico, dato che al 1 ottobre mai la temperatura del nostro Adriatico ha avuto valori superiori ai 23 gradi. Per il resto possiamo dire che ci sono state piogge temporali come succede nella stagione estiva, alternati a lunghe periodi di sole. Come accennato all'inizio, la prossima settimana assisteremo di nuovo all'affermarsi dell'anticiclone sulla regione, mentre sull'Italia meridionale stazionerà una depressione. Ciò determinerà bel tempo con tanto sole da domani e fino a fine mese. Sulla costa sofferà bora in genere moderata almeno fino a metà settimana. Le temperature massime in pianura si riporteranno verso i 30 gradi, mentre le minime saranno in genere poco sotto i 15, con una marcata escursione termica. Sulla costa si viaggerà, anche per la bora, su valori di minima poco sotto i 20 gradi e massime tra i 25 e i 27. Lo zero termico a 4.000 metri garantirà temperature miti e stabilità, anche ad alta quota. Ovviamente nelle valli ci sarà una marcata escursione tra notte e giorno, visto che è appena iniziato l'autunno astronomico. Termina qui la puntata, ma vogliamo lasciarvi con un proverbio friulano legato al tempo, ai santi e ai campi. San Micieli, la mirinda ava in cielo, ovvero per San Michele il 29 settembre le giornate si sono accorciate tanto che si salta la merenda andata in cielo. Coordinamento tecnico di Daniela Posto, il nostro indirizzo mail è vitaneicampi@rai.it. Potete trovarci su Facebook e sul sito della TGR del Friuli Venezia Giulia. Rita Micoli, Armando Mucchino e tutta la redazione vi ringraziano e danno appuntamento a domenica prossima. Avete ascoltato? Vita nei campi. Settimanale per gli agricoltori del Friuli Venezia Giulia.